Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Oh oh, cavallo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi l'intera trasmissione è dedicata ai musicisti meno conosciuti nel jazz italiano, meno conosciuti e più meritevoli, visto che si avvicina tra l'altro la votazione per per musica jazz dei dischi migliori dell'anno. E questa è una scelta, sono cinque i dischi, i musicisti dei quali ascolteremo qualche brano e qualche momento. E i più meritevoli, diciamo, secondo il mio avviso, ma i meno, come dire, conosciuti, non si parla né di Rava né di Bollani. E molti sono i talenti notevoli che in Italia si esprimono senza avere un riconoscimento più evidente e anche più meritato, tra l'altro. E quindi sono anche poche, tutto sommato, le occasioni per poterli ascoltare. Dovrebbero essere forse più presenti, cioè più attenti gli organizzatori di festival e più presenti, quindi questi musicisti. Siamo su quasi tutti i giovani, cominciando da quello che ascoltiamo adesso, Francesco Chiapperini, in una formazione piuttosto allargata, un nonetto, Extemporary Vision Ensemble si chiama, con un disco che è uscito un paio di mesi fa, qualche mese fa, Our Redemption. Ascoltiamo un brano preso, il brano conclusivo è un disco registrato live, insomma, quindi in concerto, ed è il brano conclusivo di questo set. Come dire, dà una bella sensazione della capacità di scrittura e di composizione orchestrale o di piccola orchestra. We'll be right back. Questo era il gruppo di Chiapperini, di Francesco Chiapperini, e tra l'altro mi sa che non ho detto, sax contralto e flauto, e, appunto alla guida di un nonetto di giovani, a parte una vecchia gloria, una vecchia conoscenza alla batteria, che è Filippo Monico. E, altro musicista che in questo momento rappresenta una delle punte di quanto sta accadendo di meglio nell'ambito italiano. Si tratta di Simone Graziani col suo gruppo Frontal. È un gruppo piuttosto ben titolato, nel senso che ha al suo interno ospiti di rilievo. Ad esempio, un ospite di rilievo è sicuramente Dave Binney, che tra l'altro è piuttosto anche entusiasta di partecipare a questa formazione. E poi si aggiunge un'altra ancia di livello, Dan Kinzelman, che vive in Italia, anche se è americano, ma che comunque è sicuramente uno dei sax tenore più interessanti del momento. E poi Gabriele Evangelista al basso e Stefano Tamborino alla batteria. A proposito, mi sa che ho dimenticato che Simone Graziano suona le tastiere, pianoforte e tastiere. È uscito un suo nuovo disco, il secondo con questa formazione, di questo progetto, è intitolato 35, Dio solo sa perché. Comunque, questo è il titolo, uscito per la Awand, un'etichetta che peraltro ha nelle ultime produzioni annovera diverse cose tra le più interessanti. Ascoltiamo adesso da questo quintetto, ascoltiamo un brano, quantomeno un punto di riferimento. Thank you. Simone Graziani col suo quartetto, con l'ultimo disco uscito questi giorni, peraltro, 35, intitolato 35. Abbiamo ascoltato Dave Binney con una bella solo su questa situazione ricorrente creata dal pianoforte di Simone Graziani. Altro nome, a mio avviso uno dei personaggi più interessanti, che è presente in moltissimi progetti, si tratta di un chitarrista, Francesco Diodati, peraltro suona nel gruppo di Enrico Rava, quindi presente anche nei gruppi più titolati, diciamo, nazionali, che hanno una visibilità internazionale. Tra l'altro Diodati aveva, l'abbiamo ascoltato nelle nostre costanti tournée a Saalfelden a tenere d'occhio il festival, e si era presentato insieme a Bobby Previte nell'ultimo progetto, peraltro credo che sia l'ultimo progetto col quale ha inciso Bobby Previte. E appunto Diodati ha dimostrato anche in quell'occasione, in un progetto che sembrava anche abbastanza occasionale, però ha dimostrato anche in un contesto piuttosto libero, senza strutture definite, di avere una creatività molto strutturata, molto chiara sul dove vuole parare anche nella costruzione dei suoi assoli. È uscito appunto sempre per l'Awand l'ultimo lavoro del gruppo Yellow Squids, una sorta di animale immaginario che evidentemente è nella mente di Diodati, ed è un disco ben riuscito, sicuramente un lavoro di qualità, un disco intitolato Flow Home. È un quintetto con Enrico Zanisi al pianoforte, Enrico Morello alla batteria, Glauco Benedetti al sousaphone e Francesco Lento alla tromba. Ecco, è interessante l'uso del sousaphone, nel senso che dà una tessitura scura nelle orchestrazioni, nella timbrica del quintetto, che ne dà una cifra ulteriore su questa personalità che si esprime. Ascoltiamo un brano preso da questo disco. Thank you. Questo era Francesco Diodati, l'ultimo lavoro per il suo gruppo Yellow Squids, disco intitolato Flow Home. È un disco decisamente ben riuscito, dove Diodati dimostra un'ottima capacità di leadership, di conduzione del quintetto. Il disco è uscito recentemente per la Awand. Il prossimo lavoro riguarda un musicista probabilmente più anziano di quelli che abbiamo ascoltato oggi. Si tratta di un insegnante professionista, quindi Rossano Emili, un sax baritono, del quale è uscito un lavoro recentemente per una formazione anche in questo caso piuttosto allargata, con una sezione fiati piuttosto nutrita, e nella quale appunto dimostra, con questo lavoro, dimostra una buona capacità di orchestrazione, di costruzione dei brani, nel tessuto timbrico dei brani, quindi l'utilizzo dei fiati che quasi ricorda in alcuni momenti il world saxophone o altre formazioni analoghe, e comunque dimostra anche una capacità aggiornata di scrivere musica, e il risultato è di buon livello. Ascoltiamo un paio di brani collegati tra di loro. Thank you. Questo era Rossano Emili, al baritono, col suo gruppo, con la sua formazione, nell'ultimo lavoro uscito per l'etichetta Al Mar, intitolato In Limine. E ultimo disco, ultimo musicista che ascoltiamo oggi è Matteo Bortone, contrabbassista. Da qualche tempo abita in Francia, però poi, come dire, il suo punto di riferimento comunque in Italia, e ha già inciso, questo esce il secondo, quest'anno esce il secondo disco con questo progetto Travelers, il disco intitolato Time in Maze. È una formazione, un quartetto, dove ritroviamo appunto il molto attivo e giustamente apprezzato Francesco Diodati alla chitarra e poi anche al contralto, clarinetto, insomma le anse, Antonin Tri Huang, giovane, un giovane sassofonista di talento, e Ariel Tessier alla batteria. E quindi una formazione con, come dire, una presenza francese anche significativa. E decisamente una bella sorpresa questo disco. Disco maturo, pur essendo piuttosto giovane, Matteo Bortone, un musicista che ha già una sua esperienza, naturalmente non può mancare sempre la frequentazione anche con Enrico Rava, che poi si rivela, oltre che un ottimo, uno straordinario trombettista, essere stato in tutti questi anni in Italia uno dei talent scout più importanti che è riuscito a presentare sulle scene. Basterebbero alcuni nomi come Massimo Urbani oppure Stefano Bollani. Ecco, questo appunto, ascoltiamo da questo bel disco di Matteo Bortone un paio di brani. Thank you. Era Matteo Bordone con i Travelers, questo in quartetto, l'ultimo progetto di Matteo Bordone, disco intitolato Tame Images. Un ottimo lavoro questo appena uscito di Matteo Bordone. Oggi abbiamo ascoltato una serie di musicisti interessanti sulle nuove generazioni soprattutto e che magari sono poco conosciuti o meno frequentati nei festival, dagli organizzatori dei festival italiani, che varrebbe invece la pena di poter ascoltare più frequentemente. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. E vi ricordo che l'intera trasmissione, le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it, la sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salt peanuts.